Ad alta voce, Manuela Mandracchia legge Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino. È notte. Pin ha scantonato fuori dal mucchio delle vecchie case, per le stradine che vanno tra orti e scoscendimenti ingombri di immondizie. Nel buio le reti metalliche che cintano i semenzai gettano una maglia d'ombre sulla terra grigio lunare. Le galline ora dormono in fila sui pali dei pollai e le rane sono tutte fuor d'acqua e fanno cori per tutto il torrente, dalla sorgente alla foce. Chissà cosa succederebbe a sparare a una rana. Forse resterebbe solo una bava verde schizzata su qualche pietra. Pin va per i sentieri che girano intorno al torrente, posti scoscesi dove nessuno coltiva. Ci sono strade che lui solo conosce e che gli altri ragazzi si struggerebbero di sapere. Un posto c'è dove fanno il nido i ragni. E solo Pin lo sa. Ed è l'unico in tutta la vallata, forse in tutta la regione. Mai nessun ragazzo ha saputo di ragni che facciano il nido, tranne Pin. Forse un giorno Pin troverà un amico, un vero amico, che capisca e che si possa capire. E allora a quello, solo a quello, mostrerà il posto delle tane dei ragni. È una scorciatoia sassosa che scende al torrente tra due pareti di terra ed erba. Lì, tra l'erba, i ragni fanno delle tane, dei tunnel tappezzati d'un cemento d'erba secca. Ma la cosa meravigliosa è che le tane hanno una porticina, pure di quella poltiglia secca d'erba, una porticina tonda che si può aprire e chiudere. Quando ha fatto qualche grosso dispetto e a furia di ridere il petto gli si è riempito d'una tristezza opaca, Pin vaga tutto solo per i sentieri del fossato e cerca il posto dove fanno la tana i ragni. Con uno stecco lungo si può arrivare fino in fondo ad una tana e infilzare il ragno, un piccolo ragno nero, con dei disegnini grigi come sui vestiti d'estate delle vecchie bigotte. Pin si diverte a disfare le porte delle tane e a infilzare i ragni sugli stecchi, anche a prendere i grilli e a guardarli da vicino sulla loro assurda faccia di cavallo verde, e poi tagliarli a pezzi e fare strani mosaici con le zampe su una pietra liscia. Pin è cattivo con le bestie. Sono esseri mostruosi e incomprensibili, come gli uomini. Deve essere brutto essere una piccola bestia, cioè essere verde e fare la cacca a gocce, e avere sempre paura che venga un essere umano come lui, con un'enorme faccia piena di felidi rosse e nere e con dita capaci di fare a pezzi i grilli. Ora Pin è solo tra le tane dei ragni e la notte è infinita intorno a lui come il coro delle rane. È solo, ma ha la pistola con sé e ora si mette il cinturone con la fondina sul sedere come il tedesco. Solo che il tedesco è grasso e a Pin il cinturone può stare a tracolla come le bandoliere di quei guerrieri che si vedono nel cinema. Adesso si può estrarre la pistola con un grande gesto, come si snodasse una spada, e dire anche «All'assalto, miei prodi!» come fanno i ragazzi quando giocano ai pirati. Ma non si sa che gusto ci provino quei mocciosi a dire e a fare quelle cose. Pin, dopo aver fatto qualche salto per il prato con la pistola puntata, mirando alle ombre dei ceppi d'olivo, si è già annoiato e non sa più cosa fare dell'arma. I ragni sotterranei in quel momento rodono vermi, o si accoppiano i maschi con le femmine mettendo fili di bava. Sono esseri schifosi come gli uomini, e Pin infila la canna della pistola nell'imboccatura della tana con una voglia di ucciderli. Chissà cosa succederebbe se partisse un colpo. Le case sono distanti e nessuno capirebbe da dove viene. Poi spesso i tedeschi e quelli della milizia sparano la notte addosso a chi gira nel coprifuoco. Pin ha il dito sul grilletto con la pistola puntata nella tana di un ragno. Resistere alla voglia di schiacciare il grilletto è difficile, ma certo la pistola è in sicurezza e Pin non sa come si toglie. A un tratto lo sparo parte così d'improvviso che Pin non si è nemmeno accorto d'aver schiacciato. La pistola fa un balzo indietro nella sua mano, fumante e tutta sporca di terra. Il tunnel della tana è crollato, sopra ci scende una piccola frana di terriccio e l'erba intorno è strinata. Pin è preso da spavento prima e poi da gioia. Tutto è stato così bello e l'odore della polvere è così buono. Ma la cosa che lo spaventa davvero è che le rane tacciono d'improvviso e non si sente più niente, come se quello sparo avesse ucciso tutta la terra. Poi una rana molto distante ricomincia a cantare, e poi un'altra più vicina, e altre più vicine ancora, finché il coro riprende e a Pin sembra gridino più forte, molto più forte di prima. E dalle case un cane abbaia e una donna si mette a chiamare dalla finestra. Pin non sparerà più perché quei silenzi e quei rumori gli fanno paura. Però un'altra notte tornerà e non ci sarà nulla che potrà spaventarlo. E allora sparerà tutti i colpi della pistola, anche contro i pipistrelli e i gatti che girano a quell'ora intorno ai pollai. Ora bisogna trovare un posto dove nascondere la pistola. Il cavo d'un albero d'olivo. O meglio, sotterrarla. O meglio ancora scavare una nicchia nella parete erbosa dove sono i nidi di ragno e coprire tutto con terriccio ed erba. Pin scava con le unghie in un punto dove il terriccio è già tutto corroso dalle fitte gallerie dei ragni. Ci mette dentro la pistola nella fondina sfilata dal cinturone e copre tutto con terriccio ed erba e pezzi di parete di tana, biascicati dalle bocche dei ragni. Poi mette delle pietre in modo che lui solo possa riconoscere il posto e va via frustando i cespugli con la cinghia del cinturone. La via del ritorno è per i Beudi, i piccoli canali sopra il fossato con una stretta linea di pietre per camminarci. Pin, andando, trascina la coda del cinturone nell'acqua della cunetta e fischia per non sentire quel gracidio di rane che sembra s'amplifichi di momento in momento. Poi ci sono gli orti e le immondizie e le case. E arrivando lì, Pin sente delle voci non italiane che parlano. C'è il coprifuoco, ma lui spesso gira lo stesso di notte perché è un bambino e le pattuglie non gli dicono niente. Ma Pin questa volta ha paura, perché forse quei tedeschi sono lì a cercare chi ha sparato. Vengono verso di lui e Pin vorrebbe scappare, ma quelli già gli gridano qualcosa e lo raggiungono. Pin si è rattrapito in un gesto di difesa con la cinghia del cinturone come una frusta. Ma ecco che i tedeschi guardano proprio la cinghia del cinturone, vogliono quella, e tutto un tratto lo prendono per la collottola e lo portano via. Pin dice moltissime cose, preghiere, lamenti, insulti, ma i tedeschi non capiscono nulla. Sono peggio, molto peggio delle guardie municipali. Nel vicolo ci sono addirittura delle pattuglie tedesche fasciste armate e della gente presa e arrestata, anche Michel il francese. Pin viene fatto passare in mezzo salendo per il vicolo. C'è buio. Solo in cima ai gradini c'è un punto illuminato da un lampione guercio per l'oscuramento. Alla luce del lampione guercio, in cima al carruggio, Pin vede il marinaio con la grassa faccia imbestialita che punta un dito contro di lui. I tedeschi sono peggio delle guardie municipali. Con le guardie, se non altro, ci si poteva mettere a scherzare, dire «Se mi lasciate libero vi faccio andare a letto gratis con mia sorella». Invece i tedeschi non capiscono quello che si dice, i fascisti sono gente sconosciuta, gente che non sa nemmeno chi è la sorella di Pin. Sono due razze speciali. Quanto i tedeschi sono rossicci, carnosi, imberbi, tanto i fascisti sono neri, ossuti, con le facce bluastre e i baffi da topo. Nel comando tedesco al mattino, il primo a essere interrogato è Pin. Di fronte a lui sono un ufficiale tedesco con la faccia da bimbo e un interprete fascista con la barbetta. Poi in un angolo il marinaio e seduta la sorella di Pin. Tutti hanno l'aria seccata. A quanto pare il marinaio, per una pistola rubata, deve aver montato tutta una storia, forse perché non l'incolpino d'essersela lasciata prendere, e deve aver raccontato molte cose false. Sul tavolo dell'ufficiale c'è il cinturone e la prima domanda rivolta a Pin è: come mai avevi in mano questo? Pin è mezzo addormentato. Hanno passato la notte sdraiati sul pavimento d'un corridoio e Michel, il francese, si è messo vicino a lui e ogni volta che Pin stava per prendere sonno, Michel gli dava una gomitata forte da fargli male e gli diceva in un soffio: «Se parli, ti facciamo la pelle». E Pin crepa. «Neanche se ti battono, hai capito? Devi dire una parola di noi altri». E Pin: «Morissi! È inteso che se i soci non mi vedono tornare a casa, fanno la pelle a te». E Pin: «Ti venisse un cancro all'anima». Michel è uno che prima della guerra lavorava in Francia negli alberghi e se la passava bene, anche se ogni tanto gli dicevano macaroni o cochon fasciste. Poi nel 40 hanno cominciato a metterlo in campo di concentramento e da allora in poi tutto è andato di traverso: disoccupazione, rimpatrio, malavita. Le sentinelle a un certo punto si sono accorte di quel parlottare tra Pin e il francese e hanno portato via il ragazzo perché era il principale indiziato e non doveva comunicare con nessuno. A Pin non è riuscito di dormire, a essere picchiato c'era abituato e non gli faceva tanta paura, ma quello che lo tormentava era un dubbio sull'atteggiamento da prendere nell'interrogatorio. Da una parte avrebbe voluto vendicarsi di Michel e di tutti gli altri e dire subito ai comandanti tedeschi che la pistola l'aveva data a quelli dell'osteria e che c'era anche il GAP. Ma fare la spia era un altro atto irreparabile come rubare la pistola. Voleva dire non più farsi pagare da bere all'osteria, cantare e stare a sentire cose sconce. E poi forse ci sarebbe andato di mezzo comitato, sempre così triste e scontento. E questo a Pin sarebbe rincresciuto, perché comitato era l'unica persona buona in mezzo a tutti loro. Pin ora vorrebbe che comitato arrivasse, chiuso nel suo impermeabile, entrasse nell'ufficio degli interrogatori e dicesse: «Gli ho detto io di prendere la pistola». Questo sarebbe un bel gesto, degno di lui. E nemmeno gli succederebbe niente, perché proprio nel momento in cui gli SS farebbero per imprigionarlo, si sentirebbe come al cinematografo: «Arrivano i nostri!» Ed entrerebbero di corsa gli uomini di comitato a liberare tutti. «L'ho trovato», risponde Pina all'ufficiale tedesco che gli ha chiesto del cinturone. Allora l'ufficiale solleva il cinturone e gli dà una frustata a una guancia con tutte le sue forze. Pina a momenti va per terra, sente come un volo d'aghi che gli si conficcano nelle lentiggini e il sangue scorrergli per la guancia già gonfia. La sorella dà un grido. Pina non può fare a meno di pensare a quante volte lei l'ha picchiato, forte quasi come adesso, e che è una bugiarda a far tanto la sensibile. Il fascista conduce via la sorella. Il marinaio attacca un discorso tedesco complicato indicando Pin, ma l'ufficiale lo fa star zitto. Chiedono a Pin se non si è deciso a dir la verità. Chi l'ha mandato a rubare la pistola? «La pistola l'ho presa per sparare a un gatto e poi restituirla», dice Pin. Ma non gli riesce di fare la faccia ingenua. Si sente tutto gonfio e ha una voglia lontana di carezze. Una nuova frustata sull'altra guancia, meno forte però. Ma Pin, che si ricorda del suo sistema con le guardie municipali, dà un grido straziante prima ancora che la cinghia l'abbia toccato. E non la smette più. Comincia una scena in cui Pin salta urlando e piangendo per la stanza. E i tedeschi lo rincorrono per acchiapparlo o per dargli frustate. E lui grida, frigna, insulta. E risponde alle domande che continuano a fargli con risposte sempre più inverosimili. «Dove hai messo la pistola?» Ora Pin può anche dire la verità. «Alle tane dei ragni!» «Dove sono?» Pin in fondo preferirebbe essere amico con questi uomini. Anche le guardie municipali gliele suonano sempre e poi si mettono a scherzare su sua sorella. Se ci si mettesse d'accordo sarebbe bello spiegare a costoro dove fanno il nido i ragni e che loro si interessassero e venissero con lui, che mostrerebbe loro tutti i posti. Poi andrebbero insieme all'osteria a comprare del vino e poi tutti in camera di sua sorella a bere, fumare e vederla ballare. Ma i tedeschi e i fascisti sono razze imberbi o bluastre con cui non ci si può intendere e continuano a picchiarlo. E Pin non dirà mai loro dove sono i nidi di ragno. Non l'ha mai detto agli amici, figuriamoci se lo dice a loro. Piange invece, un pianto enorme, esagerato, totale, come il pianto dei neonati, misto a urli e imprecazioni e a pestate di piedi che lo si sente per tutto il casamento del comando tedesco. Non tradirà Michel, Giraffa, l'autista e gli altri, sono i suoi veri compagni. Pin ora è pieno d'ammirazione per loro, perché sono nemici di quelle razze bastarde. Michel può star sicuro che Pin non lo tradirà. Di là certo sentirà i suoi gridi, dirà: «Un ragazzo di ferro, Pin, resiste e non parla». Difatti, il baccano piantato da Pin si sente dappertutto. Gli ufficiali degli altri uffici cominciano a essere seccati. Al comando tedesco c'è sempre un viavai di gente per permessi e forniture. Non è bene che tutti sentano che loro battono anche i bambini. L'ufficiale, con la faccia infantile, riceve l'ordine di smettere l'interrogatorio. Continuerà un altro giorno e in altra sede. Ma far star zitto Pin adesso è un problema. Loro vogliono spiegargli che tutto è finito, ma Pin copre la loro voce coi suoi strilli. Gli si avvicinano in molti per calmarlo, ma lui scappa e si divincola e raddoppia i piagnistei. Fanno entrare sua sorella che lo consoli e lui a momenti le salta addosso per morderla. Dopo un po' c'è un gruppetto di miniti e di tedeschi attorno a lui che cercano di rabbonirlo. Qualcuno gli fa una carezza, qualcuno cerca di asciugargli le lacrime. Alla fine, stremato, Pin si cheta, ansimando senza più voce in gola. Ora un milite lo condurrà alla prigione e domani lo riaccompagnerà all'interrogatorio. Pin esce dall'ufficio col milite armato che lo segue. Ha la faccia piccola piccola sotto l'ispido dei capelli, gli occhi strizzati e le lentiggini lavate dal pianto. Sulla porta incontrano Michel il francese che esce libero. «Ciao, Pin», dice. «Vado a casa. Prendo servizio domani». Pin lo smiccia con gli occhietti rossi a bocca aperta. «Sì, ho fatto domanda per la Brigata Nera. Mi hanno spiegato i vantaggi, lo stipendio che si piglia. Poi, sai, nei rastrellamenti puoi girare per le case e perquisire dove vuoi. Domani mi vestono e mi armano. In gamba, Pin». Il milite che accompagna Pina alla prigione ha il berrettino nero col fascio rosso ricamato sopra. È un ragazzotto basso basso, con un moschetto più alto di lui. Non appartiene alla razza bluastra dei fascisti. Già da 5 minuti camminano e ancora nessuno dei due ha detto niente. «Se vuoi, ti ci fanno entrare anche a te nella Brigata Nera», dice il milite a Pin. «Se voglio, entro nel... di quella vacca della tua bisnonna», gli risponde Pin senza scomporsi. Il milite vuol fare l'offeso. «Dio, con chi ti credi? Dio, chi t'ha insegnato?» E si ferma. «Dai, portami in galera, sbrigati», lo tira Pin. «Cosa ti credi, che in galera vai a star tranquillo? Tutti i momenti ti fanno andare all'interrogatorio e ti gonfiano dalle botte. Ti piace pigliare le botte?» «A te invece piace essere...» fa Pin. «A te!» fa il milite. «A te, a tuo padre e a tuo nonno!» fa Pin. Il milite è un po' tonto e ci rimane male tutte le volte. «Se non vuoi che ti picchino, entra nella Brigata Nera». «E poi?» fa Pin. «E poi fai i rastrellamenti». «Tu li fai i rastrellamenti?» «No, io sono piantone al comando». «Ma va, chissà quanti ribelli hai ammazzato e non lo vuoi raccontare». «Ti giuro, mai stato in un rastrellamento». «Mai, tranne quelle volte che c'eri». «Tranne quella volta in cui mi han preso». «Han preso anche te in un rastrellamento?» «Sì. È stato proprio un bel rastrellamento. Proprio ben fatto. Pulizia completa. Anche me hanno preso. Ero nascosto in un pollaio. Proprio un bel rastrellamento». Con Michel Pin è rimasto male, non perché giudichi che ha compiuto una brutta azione, che sia un traditore. Solo lo irrita lo sbagliarsi tutte le volte e non poter mai prevedere quel che fanno i grandi. Lui si aspetta che uno pensi in un modo e invece quello pensa in un altro, con cambiamenti che non si possono mai prevedere. In fondo anche a Pin piacerebbe essere nella Brigata Nera, girare tutto bardato di teschi e di caricatori da mitra, far paura alla gente e stare in mezzo agli anziani come uno di loro, legato a loro da quella barriera d'odio che li separa dagli altri uomini. Forse ripensandoci deciderà di entrare nella Brigata Nera. Almeno potrà recuperare la pistola e forse potrà tenerla e portarla apertamente sulla divisa e potrà anche vendicarsi dell'ufficiale tedesco e del graduato fascista con dei dispetti per rifarsi in risate di tutti i pianti e gli urli. C'è una canzone delle Brigate Nere che dice: «E noi di Mussolini ci chiamano farabutti». E poi ci sono delle parole oscene. Le Brigate Nere possono cantare canzoni oscene per le vie perché sono farabutti di Mussolini. Questo è meraviglioso! Però il piantone è uno stupido e gli dà i nervi, perciò lui risponde male a ogni cosa che dice.